Di questa musica, questa sarà una delle colonne sonore della trasmissione di oggi, Le città delle dame, realtà e utopia del Medioevo. La compositrice è Hildegard von Bingen, vissuta nell'undicesimo secolo d.C. L'idea di fare una trasmissione sulle donne nel Medioevo e poi di intitolarla Le città delle dame viene da qualche tempo fa. Ho avuto due diversi stimoli negli ultimi anni che mi hanno portato a ricercare sulle donne nel Medioevo. Prima non ne sapevo nulla, oggi mi sono fatta qualche idea in più e qualcosa di queste idee vi propongo. Una cara amica e compagna tedesca, Irmes, mi parlò un giorno mentre passeggiavamo nella campagna tedesca delle beghine. Non so bene perché me ne parlò, se perché nelle vicinanze c'era stato un convento di beghine, un beghinaggio per l'esattezza. Poco tempo dopo, tornata a Roma con le compagne del Martedì Autogestito e con le compagne di Luna e le altre, ho incontrato, per modo di dire, ho incontrato la fotografa milanese Silvia Truppi e ho ritrovato che anche lei citava le beghine. Così ho iniziato a cercare anche io e oggi vi racconterò qualcosa di quel che ho scoperto sulle beghine, che erano donne che rifiutavano il matrimonio, andavano a vivere fra loro, facevano opere di bene, chissà che cos'altro. Poi sono stata a un seminario tenuto da Zed, una lesbica che vive in una terra di donne in Francia, terra di donne che si chiama Terra. Il seminario era sulle donne nel Medioevo e sulla caccia alle streghe. Così ho ripreso le ricerche e ho scoperto la storia, che poi è una parte della mia e della nostra storia, della storia rimossa, di varie donne, scrittrici, scienziate, musiciste, insomma di donne che vivevano fra loro. E appunto questa è stata l'idea di chiamare questa trasmissione Città delle Dame. Come vedremo, in realtà di Città delle Dame nel Medioevo ce ne sono state varie. Il mio modo di lavorare e di pensare è quello di cercare tra le pieghe del sistema gli spazi di libertà che le donne, alcune donne lesbiche, si sono riuscite a conquistare nei secoli. C'è una frase che mi piace molto, che cito a memoria. Ricorda, cerca di ricordare di quando correvi libera, cacciavi e ti bagnavi nuda nel fiume insieme alle altre. Ricorda la tua storia di libertà e dove non puoi ricordare, inventa. Eh sì, inventare, perché purtroppo mancano, perché in buona parte non sono stati tramandati gli scritti delle donne. Così spesso per la ricostruzione della storia delle donne le fonti sono maschili e quindi sono evidentemente non obiettive. Anche io quindi mi arrogo il diritto di non essere obiettiva, ma non invento nulla. Un'amica che ringrazio, grazie Tamara, abbiamo fatto delle interviste perché insomma un'idea era chissà che cosa le donne di oggi pensano e sanno di come vivevano le donne del Medioevo, e quindi sentiamo un po' di risposte. Come ti immagini che vivessero le donne del Medioevo? Suonavano il mandolino. Facevano tanta musica? Sì, dalla mattina alla sera. Grazie. Tu dici che suonavano il liuto invece? Sì, sì, secondo me sì. Perché pensi questo? Boh, sta nel castello, il liuto, ci sta. Ci sta bene? Sì, sì, benissimo. Secondo te si incontravano fra di loro le donne? E assemblavano i veleni. E che ci facevano con i veleni? Le facevano bere. A chi? A chi li stava un po'... Ciao, come vivevano Ciao. Le donne nel Medioevo? Di certo non bene, spesso relegate in casa, le uscite molto limitate... anche perché la donna era vista come fonte di tentazione, no? Da parte dell'uomo, per cui anche per quanto riguarda l'abbigliamento risultava abbastanza insomma costretta a quella che era la concezione del tempo influenzata dall'ideale cristiano. E poi c'erano tutte quelle donne che cercavano un attimo di ribellarsi, di uscire dagli schemi, che venivano presto additate come streghe, no? E quindi arse al rogo. A Sarrovo, come la concezione cristiana voleva per tutte coloro che avrebbero potuto mettere a rischio, no? Quindi, il tempo. Meglio adesso. Sì, sì, sì. Grandi okay. Progressi. Vai donna, vai. Grazie. Ciao, e secondo te come vivevano le donne nel Medioevo? Una chiavica. E perché? Perché erano poco libere, non erano libere di decidere della loro esistenza. Come vi immaginate le donne nel Medioevo? Una scintola di castità. Ciao, secondo te, cioè, come ti immagini le donne nel Medioevo? Belle, pelose. Ciotte. E poi penso simpatiche, semplicissime, insomma, grandi lavoratrici, un po' come nei nostri tempi, ecco. Però senza fronzoli per la testa, ecco.